la storia principale di Left in Edicola questa settimana, un capolavoro chiamato Mente, ed è una storia che prende spunto dal fatto che ottobre è il mese dei Festival della Scienza. Left quindi propone un viaggio che va dalla commemorazione di Darwin, che in realtà cade l'anno prossimo, il bicentenario, all'affermarsi della teoria evoluzionistica, fino al tema delle neuroscienze, quindi seguendo il percorso dell'evoluzione umana, argomenti sterminati, complessi, a cui qui oggi, scusateci, ma possiamo solo accennare, rimandando intanto agli articoli di Left di questa settimana e poi comunque magari a nuove ed altre trasmissioni. Qui con me gli articoli, le storie principali sono di Federico Tulli e di Simona Maggiorelli. Avremo ospiti invece al telefono il professor Pievani, la professoressa Gatti e il professor Fagioli. Qui con me in studio c'è Federico Tulli, che saluto. Buongiorno. Grazie di essere qui. Autore di diverse storie all'interno di questa controcopertina. Intanto, rapidamente, perché vi siete occupati? Perché questa copertina scientifica? Sì, con Simona Maggiorelli ci siamo occupati di questa particolare disciplina scientifica, perché a partire dal fatto che, appunto, come dicevi tu, nel 2009 sarà il bicentenario della nascita di Darwin, ma già da alcune settimane, se non da mesi, gli scienziati, quindi filosofi, genetisti, neuroscienziati, stanno dibattendo su quello che sono state le intuizioni principali della teoria dell'evoluzionismo, e di come le nuove scienze, in particolare le neuroscienze, questa intuizione stanno sviluppando. Un'altra particolarità che ci ha colpito molto è stato il fatto che l'Italia pare sia il paese dei festival scientifici, ed è una cosa che, come dirà il professor Pievani nell'articolo, all'estero ci invidiano. Solo in questo mese ce ne sono due: Bergamo Scienza, che si concluderà il 19 ottobre, e Genova Scienza, che partirà il 23 ottobre, di cui noi parliamo nella storia. Ma poi nei prossimi mesi avremo anche il Festival della Mente di Sarzana, il Festival di Trieste e Torino Scienza. Insomma, ci interessava scoprire come mai, se da una parte la politica e il mondo scolastico ignora quasi completamente il discorso dello studio, delle culture, delle discipline scientifiche, dall'altra c'è una grossa richiesta del pubblico di andare a capire come funziona il discorso della ricerca. Allora, iniziamo questo viaggio partendo dal curatore di uno di questi importanti festival, quello di Genova. Parliamo del dottor Telmo Pievani, filosofo della scienza e autore di un libro che sarà presentato al festival, Nati per credere, perché il nostro cervello sembra progettato per fraintendere il darwinismo. Buongiorno, dottor Pievani, grazie di essere qui con noi. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Allora, iniziamo da questa frase molto significativa che Left cita. È una frase di Darwin: "Ho capito che d'ora in poi, per spiegare la natura, non è più necessario ricorrere a principi che la trascendono. Mi sembra di confessare un delitto." In una lettera del 1844. Quante cose sono cambiate da allora? È una vera e propria rivoluzione del pensiero. È per questo che è così importante anche la celebrazione del bicentenario di Darwin. Sì, è importante paradossalmente per dei motivi che sono l'uno l'opposto dell'altro. È importante per quello che diceva lei, cioè che nel frattempo, in questo secolo e mezzo, è successo di tutto, e quindi abbiamo capito che l'evoluzione funziona alla maniera che ha intuito Darwin, ma con una serie di meccanismi ulteriori che lui non poteva nemmeno immaginare. Quindi il bicentenario è un'occasione per fare il punto della situazione e vedere qual è l'attualità di Darwin. Però è interessante il fatto che, tutto sommato, il bicentenario di Darwin, come dire, è attuale anche perché le ragioni che lo portarono a quella preoccupazione, per cui lui in quella lettera dice: mi sembra di confessare un delitto, di aver commesso qualcosa che la buona società della mia epoca, lui dice, non tollererà facilmente. Beh, quella motivazione, tutto sommato, è ancora molto attuale, perché le polemiche che lui suscitò nella metà dell'Ottocento hanno degli argomenti che sono molto simili a quelli che ancora oggi circolano negli Stati Uniti, ma da qualche parte anche in Europa, che sono quelle del neocreazionismo. C'è un'altra lettera che io ho scoperto recentemente, che non conoscevo, che mi ha colpito moltissimo, è molto più tarda, del 71, quando lui ormai è, diciamo, più, molto più anziano, e ha appena pubblicato L'origine dell'uomo, e c'è uno scambio di lettere con Thomas Henry Huxley, che era un suo carissimo amico, soprannominato il mastino di Darwin, appunto, e conclude una lettera in modo molto amaro e dice: "Caro amico, guarda, sarà una lunga battaglia", dice, "anche quando io e te saremo morti e sepolti", scrive Darwin, "perché grande è il potere del fraintendimento", scrive. E fraintendimento è misrepresentation, il voler travisare a tutti i costi le cose. E credo che sia una conclusione amara che vale ancora ancora oggi, tutto sommato. Tristemente, sì. Ecco, professore, le vorrei chiedere questo. Lei diceva prima che questo pensiero, il pensiero di Darwin, è ancora attuale. È possibile dire che, grazie all'interazione tra il pensiero di Darwin e le nuove scoperte scientifiche, mi riferisco in particolare alla disciplina delle neuroscienze, in futuro molto prossimo potremo avere nuovi frutti a partire, ecco, appunto dalla teoria dell'evoluzionismo. Sì, perché l'evoluzione umana ha avuto, quindi nel caso specifico nostro, sempre delle strane eccezioni, anche nella scienza. Questo è molto interessante, secondo me. Cioè, è come se gli stessi evoluzionisti, trattando l'evoluzione della nostra specie, gli avessero voluto riservare delle eccezioni particolari. Per esempio, per tanto tempo abbiamo raccontato l'evoluzione umana come una storia di progresso quasi inevitabile, come se Homo sapiens fosse l'esito ultimo di un grande processo di perfezionamento. Oggi sappiamo che non è così, e c'è poi una seconda eccezione che è durata per tantissimo tempo, cioè per cui si pensava che fosse impossibile dare una spiegazione naturalistica e evoluzionistica delle capacità mentali umane, della mente, della coscienza, della capacità di riflessione. Ecco, questo è un tabù che abbiamo in qualche modo sconfitto da poco tempo, solo da qualche anno, che sono gli strumenti per capire qual è stata l'evoluzione naturale della nostra mente. Quello che stiamo scoprendo è abbastanza sconvolgente, perché il scritto Gary Marcus, che è un filosofo, scienziato cognitivo americano giovane e brillante, lui ha detto: capiamo sempre di più che la nostra mente è frutto di un'ingegneria approssimativa. Lui ha usato questa espressione, cioè siamo il frutto sostanzialmente di rimaneggiamenti, di bricolage opportunisti ma efficaci, che hanno funzionato, e quindi la nostra mente non è un organo perfetto, è il risultato di una lunga storia, e questo ci fa molto più simili ai nostri parenti più prossimi, ai primati superiori, di quanto già la stessa genetica non ci avesse detto, ci Ecco. avesse mostrato. Le chiedo, in questa lunga storia c'è stato un passaggio significativo che lei fa, ricostruisce a circa 50.000 anni fa. Lei dice che è come se a un certo momento l'uomo avesse scoperto tutto d'un colpo le sue potenzialità, ha cominciato a fare cose strane. Che cosa intendeva con questo Ma passaggio? quella è una delle grandi domande aperte ancora oggi dell'evoluzione umana. È ancora un po' misteriosa, ma sicuramente dietro lì c'è qualcosa di molto interessante, perché quello che noi non riusciamo a spiegare è questo: che la specie umana, dal punto di vista, diciamo, anatomico, ha avuto una certa origine, recente, diciamo intorno ai 200.000 anni fa in Africa. Però quello che noi di solito associamo al comportamento umano, e quindi alle capacità umane, è comparso abbastanza rapidamente molto tempo dopo, diciamo tra i 50 e i 40 mila anni fa, in quella che qualcuno ha chiamato la rivoluzione paleolitica. E quello è un momento cruciale, perché solo i sapiens, in questo caso, non le altre specie ominidi, cominciano a dipingere caverne, a costruire strumenti musicali. C'è un bellissimo placchetto d'osso con inciso un primo calendario lunare, che è bellissimo e che risale a più di 20.000 anni fa. E poi, nello stesso momento, cominciano anche a seppellire in modo rituale i defunti. Tutte queste cose insieme. E probabilmente sono dei comportamenti legati alla nostra capacità di immaginazione, cioè di concepire mondi che non esistono, quindi di fare astrazioni, e sostanzialmente di applicare un ragionamento che non è più strettamente legato alle fini della sopravvivenza immediata. Quello che rimane da capire è perché è avvenuto così velocemente, perché dopo che noi lo vediamo comparire in Europa, probabilmente, ma non è sicuro, vediamo che tutti i Sapiens lo adottano molto rapidamente. Allora qualcuno ha pensato, e io credo che sia l'ipotesi più corretta, che quella sia stata una rivoluzione culturale più che non biologica, altrimenti non sarebbe stata così veloce. Infatti, le avrei fatto questa domanda. Abbiamo imparato a fare delle cose che avremmo potuto fare anche prima, e poi per apprendimento uso questo comportamento in modo trasversale. Perché lei dice, l'ipotesi interessante è che questa rivoluzione non sia stata solo biologica ma culturale, scrive su Left. Le potenzialità biologiche, emotive e profonde le avevamo già, ma le abbiamo scoperte molto dopo. E poi aggiunge, in quella rivoluzione che ci ha fatto essere mentalmente umani, l'immaginazione è l'asse centrale. Sì. Sembra un salto qualitativo comunque rispetto evoluzionistico. Eh sì, perché per un evoluzionista, per esempio, una sepoltura rituale ha un significato molto diverso che non da un punto di vista, diciamo, spirituale, religioso, perché vuol dire fare un salto cognitivo importante. Lì tu hai un Homo sapiens che ha fatto questo ragionamento, ha visto che i suoi parenti più stretti muoiono, che la loro vita è finita, fa una astrazione, un sillogismo transitivo, cioè capisce che succederà anche a me, quindi anch'io sono un essere finito, e allora cosa fa? Immagina che quella che a lui sembra una fine totale sia in realtà un transito verso un'altra realtà che lui si immagina e verso la quale anche lui andrà raggiungendo i suoi simili in un futuro, e quindi li accompagna con i loro oggetti, accompagna questo transito verso un altrove. Questo è chiaramente il segno di una mente che è capace di astrarre, di immaginare, di trascendere dalla semplice realtà di sopravvivenza. E il calendario lunare, se vogliamo, è la stessa cosa, perché lì tu hai un sapiens che osserva la natura, vede che ha delle regolarità, vede che la luna ricompare con certi ritmi e capisce che può fare una generalizzazione, quindi può prevedere un comportamento, un fenomeno naturale. Quindi, paradossalmente, ma neanche tanto, è proprio questa rivoluzione nasce, se vogliamo, in qualche modo, sia la scienza, sia questa nostra attitudine ad immaginare ciò che non esiste, cioè di cui non abbiamo alcuna evidenza empirica. Professore, la ringraziamo tanto di essere stato qui con noi a Radio Radicale. Grazie, buongiorno. Grazie a voi. Buongiorno, professore. Allora, dal professor Pievani passiamo all'argomento, uno degli argomenti principali di questi festival che ci saranno in tutta Italia ad ottobre. È un argomento che riguarda le neuroscienze, ma va dritto al punto della natura del cervello umano, della nascita del pensiero. Ne parliamo per prima con la dottoressa Gabriella Gatti, docente di neurologia neonatale, neonatologa e psicoterapeuta presso l'azienda ospedaliera universitaria di Siena. Professoressa Gatti, buongiorno, grazie di essere qui con noi. Buongiorno. Allora, abbiamo appunto parlato dell'evoluzione dell'uomo e con il professor Pievani. Con lei volevamo provare ad andare nello specifico, cercare di capire per ognuno di noi, e appunto lei è neonatologa, quali sono esattamente i passaggi, cosa succede nello sviluppo del feto, nel passaggio dalla nascita del bambino? Cosa accade in questi passaggi, secondo i suoi studi? Ma prima di tutto bisogna pensare che con le nuove scoperte delle neuroscienze sull'embriogenesi si delinea un quadro unitario dell'embriogenesi. E cioè le strutture nervose nello sviluppo fetale tendono prima a differenziarsi, a organizzarsi e poi acquisiscono un'unitarietà, una potenzialità sinergica, fino a consentire la reazione ad uno stimolo esterno nel nascere. La situazione intrauterina garantisce anche una grossa protezione a tutti gli stimoli e la corteccia cerebrale è in uno stato di connessione funzionale. Dopo il passaggio nel canale del parto, la luce è uno stimolo nuovo per il neonato, lui non ha mai avuto una stimolazione di questo genere. E attraverso la retina, i nervi ottici, l'impulso della luce raggiunge la corteccia occipitale e attiva tutto il cervello e successivamente i centri respiratori. Lo stesso matematico e fisico Penrose dice che sono sufficienti pochissimi fotoni per stimolare la retina. Alla nascita, di fronte a questa stimolazione enorme, il neonato ha una reazione di difesa e questo coincide con l'emergere di un'attività psichica che poi si orienta nel rapporto, cioè nella ricerca del rapporto con un altro essere umano. Quindi questa c'è una discontinuità, diciamo, forte, qualitativa al momento della nascita dalla sua esperienza? Scusa, non ho capito. C'è una discontinuità certo, qualitativa c'è un prima, molto. E c'è un prima e un dopo. Le stesse scoperte di Ederman dicono che circa il 70% dei neuroni muoiono alla nascita, cioè quelli fetali, e se ne riproducono di nuovi. Quindi c'è un prima e un dopo anche dal punto di vista proprio anatomico, strutturale. Il professor Boncinelli a Bergamo Scienza, ma anche in altri luoghi, ha parlato dell'importanza della dimensione collettiva per lo sviluppo umano. La società, dice il genetista, cambia gli individui a livello biologico e mentale. Solo che per lui il bambino avrebbe tutto da imparare dagli adulti, come se fosse una tavoletta di cera. Qual è la sua opinione in proposito? In effetti il professor Boncinelli dice che alla nascita nessuno di noi è figlio del suo tempo e forse non è neppure un uomo. A 3 anni forse è un essere umano e a 5-6 è figlio del ha molto da imparare, figlio del suo tempo ma ha molto da imparare. E, per Boncinelli la dimensione collettiva è sinonimo di organizzazione cosciente della società. Ma non si può parlare, appunto, penso, di collettivo se non si parla prima di individuo e di quella realtà interiore che è originariamente è dall'uomo l'identità umana e che gli consente poi di avere rapporto con gli altri. Allora, se questo pensiero che il collettivo è fondamentale per l'essere umano ed è vero perché nel collettivo si cimenta l'identità, lui la trae appunto dagli studi biologici. Infatti lo stesso Ederman dice che nell'adulto si costituiscono delle linee cellulari, degli elementi di neuroanatomia che possono cambiare anche nell'età adulta legata a degli stimoli, cioè dovuta a stimoli, e che questo rimodellamento del cervello avviene fino alla morte dell'individuo. Quindi noi abbiamo sostanzialmente un continuo rimodellamento del nostro cervello e che questo è legato ai rapporti. Però non è legato, lo specifico umano non è legato alla cultura, cioè legato solo alla coscienza, ma è legato invece all'attività creativa e dei rapporti, che è lo specifico umano. Ecco, qui appunto ci stavamo arrivando, perché sempre Boncinelli dice: in quanto esseri umani, diversamente dagli animali, siamo in larga parte irrazionali. Però poi aggiunge che ciò che resta da indagare è la coscienza, che sembra un paradosso. Sì, perché nella cultura dei neuroscienziati, lui trae questo da Michel Gazzaniga, che dice che il 98% dell'attività cerebrale è inconscia, però quando loro fanno riferimento, Gazzaniga e tutti gli altri neuroscienziati, quello dello stesso Ederman, parlano dell'inconscio come automatismo e non come attività irrazionale di pensiero. E quindi l'attività principale per loro è la coscienza e non è l'inconscio, perché all'inconscio attribuiscono solo degli automatismi e quindi non un pensiero irrazionale affettivo. Ho capito, grazie dottoressa. Adesso passiamo invece ad un altro esperto, al professor Massimo Fagioli, neuropsichiatra, psicoterapeuta, docente all'Università di Chieti e conosciuto tra le varie cose per uno dei modi, appunto come autore della teoria della nascita. Professor Fagioli, buongiorno, grazie di essere qui con noi. Allora, nel lontano 71, se non sbaglio, lei scriveva il primo dei suoi libri teorici, Istinto di morte e conoscenza. Quindi, prima che le neuroscienze spiegassero molti di questi meccanismi di cui ha parlato anche ora la professoressa Gatti, però lei appunto arrivò a teorizzare quindi la nascita e quella discontinuità formativa dell'essere umano seguendo un percorso completamente diverso, ovvero nel lavoro con i pazienti psichiatrici, prima nell'ospedale psichiatrico classico e poi nel setting psicoterapeutico, sia individuale che collettivo. Ecco, come c'è arrivato lei? Cioè, qual è stato il percorso? Nel senso che non c'era il supporto tutta una serie di evoluzioni scientifiche poi dell'ultimo trentennio. Lei ci è arrivato attraverso il rapporto con i pazienti, quindi nella psicoterapia? Sì. Mi chiedete un discorso piuttosto lungo, perché come ci sono arrivato? L'istinto di morte e conoscenza, la teoria della nascita, l'ho scritta alla fine del 70, però è il risultato appunto di una ricerca che durava da 12 anni, eccetera, dal 56, eccetera. E addirittura 10 anni prima, quando nell'adolescenza ho fatto così più o meno istintivamente una ricerca su una realtà umana che non era la coscienza, che non era il comportamento, ma erano le idee, gli affetti e così via dicendo. E poi quindi nel 70 sono arrivato alla teorizzazione. Per questo come ci sono arrivato? C'è la premessa che già la professoressa Gatti dice che Boncinelli ancora dice che il neonato non è un essere umano. Di fronte a quell'orrore di pensieri di questo genere, che portano come conseguenza una criminalità, cioè che il bambino si può uccidere, eliminare, tanto non è un essere umano. Quindi si può eliminare come un animale qualsiasi, gallina o che so io. Perché, e questo è un pensiero che dura da 3, per non dire di 4.000 anni, che l'identità umana sta soltanto nella ragione, la quale ovviamente viene fuori come minimo a 7 anni, ma in verità a 14. Quindi c'era una ribellione, un rifiuto di questa strana mentalità, per cui poi ho fatto medicina, eccetera, perché quello che mi interessava era la malattia mentale, voler capire perché un essere umano non solo si ammalava, nel corpo, ma si ammalava nella mente, il pensiero andava, eccetera. E anche questa è un'altra ribellione, perché per quello che dicono tuttora moltissimi religiosi e positivisti, dicono che la malattia mentale è naturale, come se ci fosse uno strano pensiero che uno nasce malato. Ma come si fa a nascere malato? Malati si diventa sempre, in tutta la medicina si diventa malati. Poi, fatta medicina, mi sono messo immediatamente a fare il psichiatra. Però lei questo pensiero l'ha fatto nel rapporto con i malati, immagino anche con i sani, nel senso con... Proprio per questo che sto cercando di dire, che il punto cardine è il confronto con... Si può fare studiare, anche per ragioni umane, deontologiche e legali, un altro essere umano, soltanto se c'è il fine di cura. Soltanto se c'è un atto medico, un atteggiamento medico di voler scoprire le cose interne, eccetera, addirittura produrre lesioni, si dice legalmente, il medico è autorizzato e deve produrre lesioni, perché il fine è la cura. E la cura implica il concetto di malattia mentale. E il concetto di malattia mentale non c'è mai stato. C'è stato sempre un concetto di lesione cerebrale organica. Io invece, proprio nel confronto con i malati di mente, ho cercato e visto il perché di tante cose. E naturalmente ho capito pressoché immediatamente che non bastava la clinica che distingueva lo schizofrenico dal depresso, dall'ossessivo, dall'isterico, eccetera. No, ma bisognava andare oltre, cioè a quello che già da un secolo e mezzo chiamavano inconscio. Chiamavano inconscio, e lì appunto è tutto. Adoperare un metodo, quello che chiamiamo deduttivo. Ecco, lì volevamo arrivare, perché dal rapporto appunto con i malati, lei deduttivamente nella prassi clinica poi è arrivato a teorizzare la teoria della nascita, quindi la fantasia di sparizione. E dalla prassi medica, in cui c'è anche il metodo medico. Prima, 50 anni fa appunto, prima della radiografia, della TAC, della risonanza magnetica, PET, eccetera, eccetera, il medico doveva dedurre la realtà invisibile, dell'interno del corpo, polmoni, cuore, eccetera, da piccoli segni, da piccoli sintomi, un soffio, un'ottusità, un brontolio dei bronchi e così via dicendo, da un indurimento dell'addome, cosa c'era sotto l'invisibile. Io ho fatto lo stesso. Da quello che era la comunicazione, più o meno involontaria, soprattutto involontaria, del paziente, ho cercato di vedere e dedurre quello che c'era sotto nella mente invisibile. E quindi poi, fin dall'inizio direi, in particolare il cardine era questo dei sogni, cioè la realtà del pensiero senza coscienza, senza comportamento, senza linguaggio articolato. E anche qui di nuovo altra ribellione, perché ancora tuttora i filosofi dicono che nel sonno non c'è pensiero. E io faccio quello che dico piccole logiche. Se non c'è il pensiero, la persona che dorme è morta. No, evidentemente la persona che dorme non è morta. E allora se non è morta il pensiero ci deve essere. La cosa è assolutamente confermata da questa commemorazione di 40 anni dal 68 in cui c'è la morte cerebrale. Ora, uno che dorme non è, difatti poi quando si sveglia molti ti dicono che hanno pensato, è perché ti racconta il sogno. E allora se l'ha pensato, evidentemente, se si è sognato evidentemente è un pensiero. E allora com'è questo pensiero? È un pensiero per immagini. Allora, se è un pensiero per immagini, perché non pensare che il pensiero nasce prima del linguaggio articolato, prima della ragione, prima dei 2 anni, perché è un pensiero senza parola, senza linguaggio articolato, come immagine. E allora, effettivamente, perché dire che a 5 anni nasce il pensiero e con esso l'identità umana? E i primi 5 anni, al di là, eccetera, da dove nasce a 5 anni? Dallo Spirito Santo cala sulla testa come... Non c'è una cessura, non c'è una cosa grossa. Mentre la professoressa Gatta ha detto brillantissimamente, una grande cesura, una modificazione. È alla nascita, nel passaggio dal feto, che non è vita umana, eccetera, al neonato, alla nascita, in cui viene fuori l'essere umano. Questo adesso ormai lo dice anche Emanuele Severino, che invece è stato sempre seguace di Parmenide, con l'essere. E allora cos'è questa nascita del pensiero? È lì, appunto, anche perché c'è tutta una cultura, una storia, sul discorso dell'istinto di morte che è cominciato ben prima di Freud, è cominciato con il nichilismo, col socialismo, con l'anarchismo, con i decembristi russi, eccetera, in cui si è parlato di istinto di morte, che tiravano le bombe, la distruzione, la ribellione come distruzione. Mentre l'istinto di morte non è la ribellione come distruzione, ma è questa cosa che per cui la pulsione, ecco, bisognava scoprire la pulsione, che non è aver fame e aver sete. Aver fame e aver sete non è una pulsione, è un disequilibrio glicemico dell'idratazione, perché va ricompensato, ripristinato lo stato precedente. No, l'istinto di morte è la pulsione, la pulsione all'annullamento. Però siccome c'è la realtà biologica, che poi contiene questa vitalità, che non è la vitalità animale del muscolare, ma è una caratteristica della sostanza cerebrale dell'ectoderma e non del mesoderma, questa pulsione diventa quella che chiamai illo tempore, fantasia di sparizione, ed è la prima immagine che si forma nella mente sotto lo stimolo della luce, come ben detto la collega Gattini. Professore, la ringraziamo per questo sforzo di sintesi. Mamma mia, effettivamente, argomento di convegno. Mi avete chiesto 60 anni di vita di riassumere in 60 secondi. Va bene, grazie lo stesso. Grazie a voi. Buongiorno. Allora, il nostro tempo è giunto al termine, anzi ringraziamo Radio Radicale per averci concesso del tempo aggiuntivo questa settimana. Le storie erano due ed erano impegnative, dalla crisi della finanza, dell'economia alle neuroscienze, l'evoluzionismo, vasto repertorio di argomenti. Io voglio ringraziare gli ospiti qui con me in studio, degli autori delle storie di oggi, Federico Tulli, grazie di essere stato qui. Grazie a voi. Emanuele Bonaccorsi, grazie. Grazie e buon weekend. E auguro a tutti un buon weekend. Le 11:21 minuti, siete all'ascolto di Radio Radicale, questa era Radio Left, la trasmissione.